Amici, allora prendiamo in mano il nostro libro di testo, il Falsario. È un libro che, come già vi ho spiegato molte volte, non è un libro sul demonio, ma un libro contro il demonio. Infatti il sottotitolo è La lotta quotidiana contro Satana. Dunque, vi ho già spiegato, cari amici, che ho scritto questo libro, soprattutto perché oggi si parla tanto del demonio come colui che disturba in tante vicende della vita, ma non si mette in evidenza come il demonio sia pericoloso, soprattutto quando si nasconde e quando ci tenta. E questa è questa sua attività, direi che si inserisce nelle trame della nostra vita quotidiana. Le occasioni di tentazione, come l'esperienza ci dimostra, cari amici, ci sono in pratica ogni giorno, solo che noi non ci accorgiamo neppure che sono tentazioni. Per cui se noi avessimo la percezione che siamo in tentazione, perlomeno sarebbe più guardinghi. Quindi non solo il demonio ci tenta, ma non solo si nasconde tentandoci, ma addirittura riesce a far sì che noi ci accorgiamo neppure di essere nella tentazione. Per cui già accorgersi che si è nella tentazione è già per una sconfitta, perché noi in questo modo ci mettiamo sul chi va là. Stiamo facendo il secondo capitolo, intitolato Il principe delle tenebre, durante il quale, nel corso di questo capitolo, abbiamo evidenziato un aspetto fondamentale della tattica del maligno, che è quella di celarsi, quella di nascondersi. Abbiamo detto che il demonio non ama il palcoscenico, non si offende affatto se non si parla di lui, è tanto contento se a lui si attribuiscono dei sentimenti buoni come un benefattore dell'uomo, è addirittura entusiasta quando parliamo della sua conversione. In questo modo, non percependone più la pericolosità, le anime sono disarmate e lui può ingrossare il suo bottino. L'attività instancabile del demonio è molto semplice, è quella di costruire un regno, un suo regno che è il regno di morte, e naturalmente vuole che i cittadini di questo regno siano non soltanto gli angeli ribelli, gli angeli caduti, ma siano anche gli uomini. Come sapete, dall'inizio della storia dell'umanità fino ad oggi l'attività del demonio è stata instancabile, e non credo che se avesse preso nessun pesce non continuerebbe a pescare. Se pesca e caccia, vuol dire che qualche preda l'ha ottenuta. E ha valore certamente l'espressione che ha detto Giovanni Paolo II quando ha affermato che noi non possiamo sapere con certezza assoluta se e quante persone, dice uomini, siano all'inferno, perché questo è un segreto di Dio. Però ha anche aggiunto, a meno che, ha detto Giovanni Paolo II, Dio non ce lo faccia conoscere. Voi sapete che la Madonna Fatima, in una rivelazione approvata dalla Chiesa, ha detto che oggi molte anime vanno all'inferno perché c'è nessuno che prega per loro. Quindi questa attività instancabile del demonio evidentemente ha una sua ragion d'essere, è quella perché uno non lavora per niente. Evidentemente se lavora, si è infaticabile nel fare il male perché consegue dei risultati. Ma abbiamo detto con molta forza, il demonio non può fare nulla a un'anima se essa non consente. Quindi è come un cane legato, per essere morsicati dobbiamo proprio avvicinarci a lui. Quindi indubbiamente il demonio ottiene un suo risultato in questa caccia spietata che fa alle anime degli uomini, ma questi risultati li ottiene solo col nostro consenso. Senza il nostro consenso non può ottenere nulla. Abbiamo anche detto che non si può conoscere il demonio al di fuori della rivelazione divina. È vero che si parla del demonio anche in religioni e in filosofie umane, ma se ne parla in termini molto vaghi, molto superficiali. È la luce della parola di Dio che ci ha mostrato la sua esistenza, la sua natura perversa, la sua pericolosità, e in particolare è Gesù Cristo che ce ne ha parlato, dicendoci appunto che la ragione della sua venuta era quella di cacciare fuori da questo mondo il principe di questo mondo. Anzi, la ragione stessa della sua passione e della sua morte era proprio per liberarci, per riscattarci dal demonio. Nell'imminenza della sua passione, Gesù ha detto: ecco, il principe di questo mondo sta per essere gettato fuori. Quindi è Cristo stesso che ci ha chiarito l'esistenza del demonio, l'esistenza dell'inferno, ci ha chiarito la malvagità del demonio, che Gesù Cristo ha chiamato omicida e menzognero, anzi padre della menzogna. Ci ha anche chiarito Gesù come molti siano i seguaci del demonio, quando ha detto ai suoi avversari che voi avete per padre il demonio. Quindi Gesù addirittura ha attribuito una paternità al demonio e quindi anche una figliolanza al demonio qui su questa terra. E sono appunto gli uomini perversi, e sappiamo, cari amici, quanti ce ne sono, di persone che, io non voglio dar giudizi sulla loro coscienza, ma certamente sì sulle loro azioni. Cioè, sono tante oggi le persone che lavorano per il male, che fanno il male, che diffondono il male, che disgregano la morale, che in pratica e lavorano per il regno delle tenebre. Ebbene, cari amici, di queste persone si può dire esattamente quello che ha detto Gesù, e cioè che hanno per padre il demonio. Come coloro che hanno Dio per padre fanno le opere di Dio, cioè le opere del bene, così coloro che hanno il demonio per padre fanno le opere del demonio, quindi sono falsi, sono infingardi, sono violenti, sono rapinatori di anime, sono persone che lavorano per il regno delle tenebre e molte volte forse non sanno, sono i figli del demonio, ma non sanno neanche che lui esiste, e poi si troveranno di fronte a lui, di fronte a quello per il quale hanno lavorato, e da lui riceveranno lo stipendio. Il demonio darà in dono se stesso, la sua cattiveria, la sua disperazione. Quindi è Gesù Cristo, cari amici, che ci ha parlato del demonio, ci ha mostrato la sua malvagità, la sua opera perversa, ma soprattutto Gesù Cristo ci ha parlato della sua sconfitta, cioè della sconfitta del demonio. Ci ha chiarito che la redenzione, che la sua battaglia era contro Satana, e che la redenzione è consistita nello strappare questo mondo al maligno. E questo è stato reso efficace dalla grazia che Cristo ci ha ottenuto con la sua passione e morte. Infatti noi, mediante la grazia, siamo in grado di sconfiggere il demonio. Quindi è la luce del mondo, Gesù Cristo, che ha da una parte ha messo in luce i pensieri perversi degli uomini, dall'altra ha messo in luce colui che li ispira, e cioè Satana. Voi sapete che Gesù Cristo ha avuto parole di fuoco a riguardo, quando ha detto che si è o con lui o contro di lui, o si serve Dio o Mammona. Con la venuta di Cristo Satana è stato costretto a venire allo scoperto, è stato affrontato da Cristo ed è stato sconfitto da Cristo. Non dimentichiamo, cari amici, che la vittoria di Cristo contro Satana è il cuore stesso del Vangelo. Tuttavia, Satana ha ancora il permesso di nuocere, benché noi possiamo evitare che ci faccia del male. se non diamo il nostro consenso, lui è inoffensivo. Tuttavia, se noi ci avviciniamo a lui e diventiamo suoi complici, il suo morso è sempre pericoloso e mortale. Quindi Cristo ci ha dato questa grande possibilità, è venuto a legare Satana, anche se tuttavia anche prima di Cristo l'uomo poteva sottrarsi al potere del maligno non dando il consenso. Perché come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, dopo il peccato originale il libero arbitrio dell'uomo è stato indebolito ma non reso schiavo. E quindi il demonio, il morso del serpente, è sempre pericoloso e mortale, ma noi abbiamo ora la possibilità di scoprirlo e quindi di renderlo inoffensivo. Chi sta saldo nella fede, abbiamo concluso ieri, non cade nei raggiri del nemico. E oggi vorrei proseguire, cari amici, con l'ultimo paragrafo del capitolo secondo, che è il mio libro, siamo a pagina 18, che è intitolato «Se dimori nella luce, scopri Satana le sue insidie». E con questo paragrafo, del secondo capitolo, vorrei rispondere, cari amici, alla domanda spontanea che noi ci facciamo. E cioè, se esiste questo nemico pericoloso per le nostre anime, questo nemico della nostra salvezza eterna, se lui è così astuto, così pericoloso, se lui ha questa capacità straordinaria di mimetizzarsi, chi si salverà? Come potremo noi scoprirlo? Come potremo noi sfuggire alle sue insidie? Ebbene, cari amici, non c'è dubbio che se noi dimoriamo nella luce, se noi siamo nella luce della fede, e se noi siamo nella vigilanza, la luce di Cristo ci permette di scoprire le insidie del demonio e di sfuggire ad esse. Mentre, cari amici, chi sta nelle tenebre, chi sta nel male, non solo non vede più Dio, non vede neanche il demonio e quindi è totalmente in balia dei suoi raggiri. Allora leggiamo e commentiamo quest'ultimo paragrafo che è intitolato «Se dimori nella luce, scopri Satana e le sue insidie». Oggi non pochi, anche fra i cristiani, dubitano dell'esistenza di Satana o hanno di lui una errata concezione. Alcuni ne negano la realtà, altri ne sottovalutano la malvagità, altri la potenza di male, altri ancora arrivano addirittura ad ipotizzare una sua futura conversione in una specie di purificazione universale che avverrà alla fine del mondo. Quindi dobbiamo dire che a questo riguardo non pochi cristiani sono lontani dai veri dati della fede, cioè hanno del demonio una concezione che non è corrispondente alla rivelazione che Dio ci ha fatto. E questo certamente facilita l'azione del demonio e aumenta i pericoli per le nostre anime. In un tempo di eclissi della fede e della morale, non c'è da meravigliarsi che attecchiscano idee di questo genere. Vorrei, fra parentesi, cari amici, ricordare che la Regina della Pace, nei suoi messaggi, per 50 volte ha parlato di Satana. La Regina della Pace, come sapete che nel mio libro Perché credo a Medjugorje ho dedicato un intero capitolo alla lotta contro Satana, secondo i suggerimenti della Regina della Pace. La Regina della Pace non parla mai di demoni, di diavoli, parla di Satana. Come lei, la Regina della Pace, ai suoi ordini di angeli buoni, e così Satana ha i suoi ordini di angeli ribelli, ma i due avversari sono la Regina della Pace da una parte e Satana dall'altra. Voi vi direte, ma Gesù Cristo indubbiamente ha associato Maria nella lotta contro Satana. Perché l'ha fatto? Perché lo fa? Perché in pratica la lotta, invece di essere ora, non ai tempi in cui Cristo venne su questa terra, la lotta era direttamente fra Cristo e Satana. Ora la lotta è, diciamo così, almeno per quanto riguarda la nostra percezione, è fra la Madonna e Satana. Qual è il motivo? Il motivo è molto semplice: Cristo ha già vinto Satana. Ora vuole umiliarlo facendo sì che sia la donna a schiacciargli la testa. E questo perché, avendo Satana umiliato la donna, umiliato Eva, vincendola, Cristo, che ha vinto il demonio, vuole che sia Maria, ora cioè la donna, la nuova Eva, a umiliare il serpente, quindi a riparare quello smacco che ebbe la donna all'inizio della storia dell'umanità. Dunque, vi dicevo che in un tempo di eclissi della fede e della morale non c'è da meravigliarsi che attecchiscano idee di questo genere, cioè che Satana non c'è, che Satana è poco pericoloso, o forse si convertirà, comunque ne viene sottovalutata la malvagità. Il fatto di dire che l'inferno è vuoto è come se Satana lavorasse invano. Questo evidentemente è tutto da dimostrare, è tutto da dimostrare. Quando le anime sono nel buio o la loro fede ridotta a un lucignolo fumigante, non riescono più a vedere il maligno e la sua azione tenebrosa. Quindi, cari amici, per scoprire Satana e le sue insidie abbiamo bisogno della luce della fede. Quando noi ci allontaniamo dalla luce della fede, ci facciamo di Satana delle idee sbagliate, e lui naturalmente se ne rallegra, perché diventa ai nostri occhi inoffensivo, invece lui continua con la sua perversa malvagità. Sai, tu fai entrare un amico in casa, poi quello è un ladro. Caro amico, l'hai fatto entrare in casa perché credeva che fosse una persona buona, no? E così tu vieni a patti con uno che poi ti rapina l'anima. Allora, quelli che invece non sono nella luce, cari amici, non riescono più neanche a distinguere il bene dal male. Non vedono più le tentazioni. Non vedono più le insidie del maligno. E considerano felicità quella che è una situazione di schiavitù e di rovina per la loro anima. Se tu leggi con attenzione i Vangeli e tutti gli atti scritti del Nuovo Testamento, ti renderai conto con quale fermezza, precisione e profondità vengono descritte la natura del demonio e la sua attività. Qui bisogna mettere bene le cose in chiaro, cari amici. Se noi vogliamo sapere chi è il demonio, dobbiamo andare alla Sacra Scrittura. Dobbiamo andare ai Vangeli e leggi nella luce della fede. Non fare quelle operazioni, potremmo dire, demolitrici di chi ha in pratica eliminato tutto ciò che Cristo dice di Satana. Parlo di alcuni esegeti, anche recentemente sono usciti libri di questo genere, sapete, e naturalmente pubblicati da teologi, da case editrici cattoliche, come se niente fosse. Questi sono i tempi in cui viviamo, in cui in pratica si dice sì, ma queste concezioni dei demoni che ci sono nei Vangeli sono attribuibili alla mentalità di quel tempo, e quindi tutto liquidato. Tutto ciò che la rivelazione ci dice sul demonio viene liquidato in questo modo, ma chi scrive questi libri è gente che non ha fede. Non vedo come si possono chiamare teologi persone che demoliscono la rivelazione di Dio. Ma se noi leggiamo il Nuovo Testamento, cari amici, e i Vangeli e anche le altre lettere degli Apostoli, noi ci rendiamo conto con quale fermezza, precisione e profondità, difatti io mi attengo soltanto a questi dati, sapete, del Nuovo Testamento, non ad altri, con quale fermezza, precisione e profondità vengono descritte la natura del demonio e la sua attività. Questo è vero anche per la vita dei santi, cioè laddove c'è la luce il demonio viene messo, diciamo così, ben evidenziato nella sua natura perversa. Questo tu lo vedi sia nei Vangeli, dove c'è la luce della rivelazione, ma questo tu lo vedi anche nella vita dei santi, dove c'è la luce della santità. Pensa per esempio come si evidenzia il demonio nella sua malvagità nella vita di Padre Pio o nella vita del santo curato d'Ars, o in tante altre vite di santi. Cioè è la santità che mette in luce la natura perversa del maligno e la sua attività nefasta. Dunque, laddove c'è la luce soprannaturale è grazie alla luce soprannaturale della rivelazione divina o della santità che viene messo in evidenza la natura del demonio e la sua attività. Forse ti sarai chiesto perché nell'esistenza dei santi vi è sempre la presenza ostile e piena di insidie del maligno. Ti rispondo dicendo che la santità è una luce che rischiara le tenebre, per cui il maligno è identificato ed è costretto a venire allo scoperto. Cioè sono i santi che obbligano il maligno a uscire fuori. Come Cristo ha obbligato il maligno a uscire allo scoperto e l'ha battuto, così i santi, che rappresentano in qualche modo nel loro limite naturalmente la santità di Cristo, costringono il demonio a uscire allo scoperto. Questo, cari amici, questo fatto, cioè che la luce e la santità costringono il demonio a uscire, questo è una grande importanza per la vita spirituale di tutti i cristiani. Se tu vivi nella tiepidezza o nel peccato, attento, divieni facile preda di un nemico che non vedi perché sei nelle tenebre e che ti retisce a tua insaputa. Ripeto, se tu vivi nella tiepidezza o nel peccato, divieni facile preda di un nemico che non vedi e che ti retisce a tua insaputa. Ma se tu dimori saldamente nella luce della fede e ti impegni per rendere la tua vita sempre più pura, il tuo occhio incomincerà a vedere chiaramente le insidie quotidiane e le infinite astuzie del nemico, le sue inesauribili risorse e la ferocia con cui si vendica di ogni sua sconfitta. Stai tranquillo, cari amici, che chi dice che il demonio non c'è, che chi dice che non è pericoloso su tutte le storie del Medioevo, stai tranquillo che quelle persone non hanno una buona vita spirituale. Sono nelle tenebre. Non troverai mai nessun santo che dice che il demonio non c'è o che non è pericoloso. Nessun santo. Nessun uomo che è nella luce. Sono gli sciocchini, quelli che hanno la testa un po' vuota e che sono nella mediocrità o nelle tenebre, che dicono così. Perché? Perché essendo nelle tenebre divengono facile preda di un nemico che non vedono e che li irretiscono a loro insaputa. Ma se tu, caro amico, dimori saldamente nella luce della fede e ti impegni per rendere la tua vita sempre più pura, il tuo occhio incomincerà a vedere chiaramente le insidie quotidiane e le infinite astuzie del nemico, le sue inesauribili risorse e la ferocia con cui si vendica di ogni sua sconfitta. Guardate, cari amici, che la cosa più importante della lotta contro il demonio è scoprirlo, perché una volta scoperto è quasi innocuo, capito? Ma quando tu hai scoperto che la serpe è lì, mica gli vai a dare il dito, e che tu il dito lo metti sotto il sasso quando pensi che la serpe non ci sia. Certo, cari amici, attenzione a questo passaggio che è molto importante, prendete nota, sarebbe un errore vedere il demonio dappertutto, sarebbe un errore vedere il demonio dappertutto, perché allora vuol dire che tu lo vedi anche dove non c'è, capito? Mal di pancia è il demonio, no figliolo caro, hai mal di pancia vai dal medico. Quindi sarebbe un errore vedere dappertutto il demonio. Ma tu, con i tuoi occhi fissi nella verità di Dio, vedi per tempo le sue seduzioni. Quindi non è il mal di pancia il demonio, no, guarda le seduzioni, è lì che c'è lui, è lì che si nasconde. Se tu hai gli occhi fissi in Dio, vedi per tempo le sue seduzioni, scopri le trappole proprio laddove stavi mettendo il piede. Resisti con determinazione nei momenti della bufera, quando per esempio ti aizza o ti investe col vento della tentazione. Lo previeni indossando le armi della luce quando gli cerca di prenderti di sorpresa. Quindi chi è nella luce vede il demonio laddove esso è veramente. Molti si chiedono, con una certa apprensione, come sia possibile sfuggire alle insidie di un avversario così astuto, così instancabile e così pieno di risorse. Non bisogna dimenticare che Satana può vantare prede di grande prestigio. Essendo riuscito a rovinare un apostolo, Giuda, e a disperdere come foglie al vento tutti gli altri. Quindi non sottovalutiamolo. Lui non si smonta e ha affrontato anche Gesù Cristo. Il Montfort nota con tristezza che alberi giganteschi in santità sono miseramente schiantati e aquile che spaziavano nei cieli dello spirito si sono trasformati in uccelli notturni. Ma non impaurirti. La prima grande difesa contro il maligno è la luce della fede. Egli, come dice Giovanni, 8,44, lo dice Gesù in Giovanni, egli è il principe delle tenebre e colui che non ha perseverato nella verità. Se tu stai ben radicato nella verità della fede, alimentandola con l'umile preghiera e la grazia dello Spirito Santo, Dio ti indicherà le insidie del maligno, anche laddove il tuo povero occhio umano non sarebbe mai arrivato. Te le mostrerà nelle trame più insignificanti della vita quotidiana, dove egli si cela con un'abilità insuperabile. Se tu stai nella fede della preghiera lo scopri. Dio te lo fa scoprire. Ti darà il discernimento delle